È abbastanza strano, da un certo punto di vista, che il primo dei 4 o 5 punti su cui il centrodestra, su proposta della Lega, ha ricompattata la propria unità dopo la celebre crisi della maglietta blasfema, riguardi, guardate un po', la difesa delle radici cristiane dell'Europa. È strano, perché pur essendo il problema in sé tutt'altro che rilevante, basta pensare a quanto stia a cuore al Papa attuale e lo sia stato il suo compianto predecessore, però nel sistema ideologico che esibiscono i partiti della Casa della Libertà non c'è poi molto che giustifichi un interesse particolare per le problematiche religiose. È vero che in quella coalizione è collocato un partito che rivendica l'eredità della Democrazia Cristiana, ma nell'altra ce ne sono due. E poi il liberalismo a cui fanno tanto spesso riferimento Berlusconi e i suoi, in materia dovrebbe avere un atteggiamento neutrale. Tanto è vero che proprio in nome dei principi liberali che a suo tempo non si è voluto inserire il richiamo a quelle radici nella Costituzione europea. Quanto alla Lega, anche senza voler dare troppa importanza alle sparate periodiche di Bossi sui cardinaloni, ai matrimoni di rito celtico, al culto del Dio Po e tutto questo, è evidente che il suo localismo non ha dei gran fondamenti nella tradizione cristiana, anzi è piuttosto in contrasto con la storica predilezione della Chiesa per un'amministrazione centralizzata e uniformizzata. A rigore, quella tematica lì dovrebbe allineare molto di più tra le file dell'Unione. In fondo, Prodi è il leader che tra tutti può vantare il più ampio ventaglio di frequentazioni clericali e cardinalizie. Quelli della Margherita e dell'Udeur non sono secondi a nessuno nell'ossequio al magistero ecclesiastico. E la spina dorsale della coalizione, infine, è rappresentata comunque da quei DS nel cui genoma non credo sia del tutto svaporato il ricordo del dialogo con i cattolici di Togliatti e del compromesso storico di Berlinguer. Gli altri contano un po' meno. Eppure il tema è saldamente in mano alla destra. Non sarà un caso se un gran numero di parlamentari e ministri di quello schieramento, compresi Bondi, Adornato, Schifani, Alemanno, Gasparri, la Letizia Moratti e il gran capo in persona anche, hanno sottoscritto un manifesto del Presidente del Senato che, a quanto s'apprende dal Corriere di venerdì 24, annuncia battaglia contro il relativismo, il pacifismo e, appunto, la perdita del senso religioso. La contraddizione è patente, non si spiega in fretta. Quel manifesto, a quanto mi sembra di capire, non nasce da preoccupazioni teoriche. Intende contribuire a niente meno che alla riscossa dell'Occidente. E in questo quadro, oltre a caldeggiare, manco a dirlo, la più stretta collaborazione fra l'Europa e gli Stati Uniti e la strenua difesa di Israele, deplora che troppo debole sia stata la risposta europea agli attacchi dei fanatici islamici e depreca una certa eccessiva liberalità nel permettere l'immigrazione da quei paesi. Che è certamente un modo per accodarsi alle note posizioni guerrafondaie del presidente Bush, ma ricorda anche da vicino un altro dei punti proposti dalla Lega ai suoi alleati, quello che nel quadro appunto di una limitazione dei flussi migratori chiede che l'accesso al paese, al nostro paese, sia riservato ai lavoratori dei paesi che riconoscono la reciprocità dei diritti umani, politici e religiosi. Una proposizione un po' scura, ma il cui senso è stato riassunto dal noto onorevole Salvini con la formula stop all'immigrazione islamica. Insomma, non sembra irragionevole pensare che il richiamo alle radici cristiane dal punto di vista di chi ci governa sia più esclusivo che inclusivo, nel senso che più che definire dei valori cui ci si propone di attenersi, serve semplicemente a denominare il nemico, l'entità da cui ci si chiede di difenderci, e la migliore difesa in questi casi si sa che è l'attacco, e che dobbiamo comunque tenere alla larga dai nostri confini. Se questo significa rinunciare ai principi laici, anche ai propri, e cedere alle richieste sempre più esose della Chiesa ratzingeriana, questo è un prezzo che, in vista del fine, costoro hanno deciso di poter pagare senza rimpianti. C'è una premessa in tutto ciò, naturalmente. La premessa sta nel fatto che dei valori laici di tolleranza, rispetto reciproco, libertà di pensiero e uguaglianza di trattamento per tutti, non importa un granché a nessuno, a destra come a sinistra. Non sarà un caso se la difesa di questa tematica da anni è quasi monopolio di un gruppo, come a dire, specializzato, il cui status marginale è denunciato dalla facilità stessa con cui sa trasmigrare da uno schieramento all'altro. Nel concreto, si è visto che in Italia non cade foglia che ruini non voglia, e le prospettive che la situazione migliori dopo il 9 aprile chiunque vinca non sembrano davvero straordinarie. Ma permettetemi un'ultima osservazione e poi la smetto. Finora nessuno ha sentito il bisogno di osservare che quella di radici cristiane è un'espressione metaforica. E come tutte le metafore, funziona soltanto nel senso in cui la si vuol fare funzionare. E come noi parliamo di radici cristiane dell'Europa, altri potrebbero benissimo riferirsi alle radici europee del cristianesimo. E non è un paradosso, eh? Quella religione, come è noto, non è nata in Europa, ma dalla cultura europea è stata rielaborata a fondo, ed è proprio nel nostro continente, in definitiva, che ha assunto gran parte delle caratteristiche che la contraddistinguono oggi. Fosse restata un fatto medio orientale, come era alle origini, sarebbe tutta un'altra cosa. Così, rivendicare per se stessi le radici cristiane significa ancora una volta volerne escludere gli altri, negando al cristianesimo stesso qualsiasi pretesa di universalità. Se fossi papa, come diceva Cecco Angioglieri, io di certi zelatori alleati non mi fiderei più che tanto.